Il punto di Stefano Folli. Non esistono alternative a questa maggioranza, hanno ripetuto a poche ore di distanza il Presidente della Repubblica e il Premier Enrico Letta. Non è un concetto nuovo, ma ribadirlo segnala, neanche a dirlo, le difficoltà della coalizione. Il fatto che sia saltato il compromesso in Parlamento fra PD e PDL sul reato di voto di scambio ne è la prova. Questo spiega il dinamismo di Letta, il suo darsi da fare per affermare una leadership più incisiva. È inevitabile per lui percorrere questa strada nel momento in cui l'estate si rivela ricca di trabocchetti. Le pressioni sul Partito Democratico e all'interno del partito di Epifani stanno aumentando e fra pochi giorni arriva la sentenza della Cassazione su Berlusconi. Il sentiero di Letta è stretto, ma per ora resta l'unico percorribile.